ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo ventesimo. Bianca Maria Cavalcanti. Un silenzio profondo regnava da 3 giorni nella casa del marchese Carlo Cavalcanti. Le porte, oliate nei loro cardini e nelle loro serrature, si schiudevano e chiudevano senza fare alcun rumore. I 2 vecchi servitori, Giovanni e Margherita, camminavano in punta di piedi senza parlare, come ombre scivolanti sul pavimento, o piuttosto restavano immobili. Giovanni, seduto sulla sola sedia di paglia che mobiliasse l'anticamera, Margherita seduta accanto al letto della fanciulla inferma, guardando nello smorto volto immerso in quel greve stupore, nel sopore morboso dell'alta febbre. Il medico, un qualunque dottore chiamato in fretta dalla vicina farmacia Berriola, aveva detto anzitutto che ogni rumore produceva una dolorosa impressione sul cervello dell'ammalata. E subito nella casa era caduto ogni stridio, ogni sospiro, non una parola, non un soffio. Tanto quei vecchi servi erano fatti per la taciturnità e per l'immobilità, già quasi vinti da quell'ultimo lungo riposo. Poi il medico aveva chiesto del medico curante e quando gli aveva nominato il dottor Amati, aveva subito soggiunto di mandarlo a chiamare. Egli ne aveva bisogno. La faccia ansiosa del marchese Cavalcanti si era fatta di gelo e una espressione di dolore uguale espressione si era dipinta sui volti dei 2 servi. Allora quello, sospettando qualche mistero, aveva crollato il capo e si era messo da sé a curare l'ammalata, coprendole di ghiaccio il capo infiammato, dandole del chinino ogni 2 ore per vedere di diminuire l'alto grado della febbre tifoide che l'ardeva, nutrendola fortemente, ma senza ottenere nessun miglioramento, non arrivando a vincere il coma in cui la fanciulla era immersa, se non che per suscitare un delirio bizzarro misto di spasmodiche convulsioni nervose. Così, all'avvelenamento del sangue prodotto dall'infezione tifoidea, si univano dei gravissimi disturbi nervosi che complicavano la infermità. «Che dite, dottore? Che dite?» chiedeva il marchese Cavalcanti sul pianerottolo della scala. Se fosse solo il tifo, potrei dare speranze, ma tutto il sistema nervoso è sconquassato. Corriamo il pericolo di una meningite. Lo ripeto, bisognerebbe chiamare il dottore Amati. Egli conosce la paziente. È impossibile, rispondeva recisamente il marchese. E allora, diceva l'altro andandosene. E rientrando nella stanza della figliuola, il marchese di Formosa irrigidiva tutto il suo orgoglio contro gli inviti del medico che perseguitavano il suo cuore paterno. In certi momenti usciva dalla stanzetta di Bianca Maria e si metteva a passeggiare nel salone. Spesso i suoi passi agitati facevano troppo rumore e sulla soglia compariva il viso inquieto di Margherita e gli si fermava. Ella gli faceva cenno di chetarsi. Il rumore dava dolore a Bianca Maria. «Anche qui le do fastidio?» chiedeva lui fremente. E poiché la cameriera Margherita assentiva, sì, era vero, anche da lontano egli la faceva soffrire. Per reprimere un impulso d'ira, egli prendeva il cappello e usciva di casa. Raramente le iniezioni di chinino arrivavano a diminuire il calore della febbre. Era una variazione minima, scorante. Solo nel mattino del 10° giorno ella parve a un tratto migliorata. Era sonno invece di torpore. E nel sonno confortante un gelido sudore le scorreva dalla fronte che delicatamente Margherita le rasciugava. Era l'imbrunire quando ella aprì gli occhi. I grandi occhi che erano stati chiusi per 10 giorni dalla mano di piombo rovente della febbre. E subito Margherita si piegò su lei interrogando «Come vi sentite?» Il suo stupore fu che la fanciulla, invece di rispondere con un cenno della mano o della testa, dicesse con una voce fievole «Meglio». Adesso anche il marchese Cavalcanti era accorso vicino al letto e tremante di gioia ripeteva «Figliuola mia, figliuola mia!» «Volete qualche cosa?» chiese la cameriera per udire un'altra volta quella sottile voce che le era andata al cuore. «Niente, sto meglio, mormorò l'ammalata con un sospiro di sollievo dal petto liberato. Il padre le aveva preso una mano, guardando teneramente la sua fanciulla. Ed ella, che da 10 giorni lo scacciava dal suo letto con lo sguardo e col gesto della mano, questa volta gli sorrise. Fu una luce rapidissima. Egli non sapeva dire altro, balbettando: «Figlia mia, figlia mia». E Margherita uscì dalla stanza lietamente, come se la sua giovane padrona fosse salva. Salva per sempre dall'orribile pericolo in cui aveva versato per 10 giorni. Ora il marchese Cavalcanti si era seduto al capezzale dell'inferma e, tenendole la sottilissima mano fra le mani, sentiva ogni tanto le dita scarne della sua creatura appoggiantesi un po' di più sulle sue, a espressione di affettuosa carezza. 2 o 3 volte egli si era chinato e le aveva domandato: «Vuoi qualche cosa?» Ella non aveva risposto, ma quel lume fugacissimo di sorriso era riapparso. Era già notte e i visi non si distinguevano più, quando, a una novella domanda del vecchio padre, Bianca Maria rispose: «Sì. Che vuoi? Dillo subito». «Voglio il dottore», ella disse. «Ti senti male?» chiese il vecchio, fraintendendo. «No, voglio il dottor Amati». Il padre mise dalle sue la mano della figliuola sulla coltre, ma non disse nulla. «Hai inteso? Voglio il dottore Amati», ella ripetette, con voce più alta, ma dove già un turbamento fremeva. «No, figlia mia», egli rispose, cercando di frenarsi, pensando alla malattia, pensando al pericolo. «Voglio il dottore Amati», disse ella a voce forte, levando la testa dal cuscino con un moto singolare. E parve anzi al vecchio che ella avesse digrignato i denti dopo aver pronunziato per la 4ª volta la sua strana richiesta. «Non è possibile, figliuola», mormorò lui, cercando di domare la propria collera bollente. «Va a chiamare il dottore Amati! Va subito!» gridò ella come se gli comandasse. «Tu sei pazza!» gridò lui levandosi. «Non andrò mai!» «Sì, sì, sì!» urlò lei, sollevata sul cuscino, con le pugna chiuse che stringevano convulsamente il lenzuolo. «Tu andrai subito e lo porterai qui, subito! Amati, io lo voglio, vicino a me, sempre con me, va subito!» «No, no, no!» urlò lui a sua posta, senza capire più nulla. «Egli non metterà mai piede qua dentro, finché io sono vivo!» Margherita era accorsa sconvolta, un'altra volta disperata, ma più disperata ancora dalla novella piega che aveva preso la malattia. Appena la vide comparire, Bianca Maria le gridò: «Margherita, se mi vuoi bene, vai a chiamare il dottore Amati!» «Te lo proibisco, hai capito?» strillò alla cameriera il vecchio marchese, così esasperato che le mani gli tremavano, gli occhi lanciavano scintille. «Per carità, signorina, non vi agitate. Considerate che parlate a vostro padre, per carità. Eccellenza, pensate che la signorina è ammalata, non ragiona», diceva Margherita piangendo. «Io non sono pazza. Io voglio il dottore Amati!» gridò ancora la fanciulla, stringendo le pugna, digrignando i denti, roteando così convulsamente gli occhi che pareva si vedesse solo il bianco della cornea. «Oh, Madonna mia! Oh, Madonna mia!» continuava a piangere Margherita. Per carità, se mi volete bene, andate a chiamare il dottore Amati!» singultava l'inferma, col capo abbandonato che ogni tanto si sollevava sbattendo sul cuscino. «È pazza! È pazza!» gridava il vecchio frenetico. «Signore mio, andatevene fuori, ve ne prego, andatevene fuori!» supplicava Margherita, vedendo che la figliuola fissava i suoi occhi, ora carichi di un'intensa collera, ora di un intenso dolore, sul padre e che ciò lo rendeva ancora più frenetico. «Me ne vado! Me ne vado, ma essa non lo vedrà il dottore Amati!» gridava lui, uscendo fuori, sentendo di non regger più. Ma dal salone, dove egli aveva portato il suo furore, egli udì un urlo alto, lungo, straziante, come se all'inferma le si attanagliasse la carne, e dopo altre grida più basse, ma strazianti ugualmente, tanto vibrava in esse un lamento di dolore insopportabile e parole alte e basse che gli arrivavano confusamente. La fanciulla era caduta in convulsioni. A un tratto il rumore si chetava ed allora, tremando ancora di una complessa emozione di ira, di pietà, di paura, egli si avvicinava alla stanza, ma non entrava, chiamando la cameriera sulla porta. «Come sta?» peggio, peggio, diceva ella piangendo silenziosamente. Ma che dice? Vuole il dottore Amati? Questo mai! Amati, Amati, voglio Amati, ella diceva delirando, stravolgendo paurosamente gli occhi. E ricaduta, abbattuta sul letto in una nuova paralisi, l'unica cosa viva di lei era la voce che voleva Amati. Sempre l'unica idea della sua ragione smarrita era Amati, Amati, Amati. Gli scriverò, disse il vecchio desolatamente, andando di là mentre il medico provava a mettere nuovo ghiaccio sulla testa infiammata di Bianca Maria. Il marchese scriveva, ma era insopportabile lo sdegno di dover cedere, le parole non uscivano dalla sua penna. Stracciò due foglietti. Infine ne uscì una breve lettera, con la quale pregava il dottore Amati di andare a casa sua, perché sua figlia era malata, nient'altro. Quando dovette scrivere l'indirizzo, fu per rispezzare la penna. E senza guardare in volto Giovanni, gli disse di correre dal dottore. Sì, dal dottore Amati. E il poveretto corse, mentre il dottor Morelli dava delle pillole alla povera delirante che urlava, poiché il dolor di testa era divenuto insoffribile, atroce. Il padre, consumato il primo sacrificio, si sentiva impazzire a quegli urli e tremava. Temeva di mettersi anche lui a urlare come lei, come se ella gli avesse comunicata la meningite. Adesso che aveva scritta la lettera, consumando un insopportabile sacrificio, adesso il marchese Cavalcanti si metteva a desiderare che il dottor Amati giungesse presto almeno. Gli era impossibile sopportare più quelle grida, quei lamenti, quei gemiti, in cui un solo nome continuava ad apparire sempre, sempre. E oramai contava i minuti del ritorno di Giovanni, tendendo l'orecchio, se udisse qualche rumore di porta che si schiudeva. Il tempo passava e l'ammalata, malgrado il ghiaccio, malgrado il calomelano, delirava con gli occhi stravolti, in preda alla infiammazione che sembra arda il cervello. Ecco, una porta si apriva. Qualcheduno si avanzava verso la stanza in cui il marchese di Formosa aveva ricoverata la sua disperazione. Era Giovanni, solo, e pareva così stanco, così vecchio, così triste, che il marchese tremò, chiedendogli: «Ebbene, non viene il dottor Amati? Non vi era?» Non vi era. L'ho aspettato sotto il portone e poi è venuto. E dunque? Ha letto la lettera. Ha detto che egli era troppo occupato. Che la signorina aveva certo qualche altro buon medico. Non lo hai pregato? L'ho pregato, eccellenza. Si è fatto aspro. È andato via mormorando certe parole che non ho capite. Dovevi salire, insistere. Non ho avuto il coraggio. Ma capisci che senza lui la signorina muore, non lo capisci? Lo capisco, eccellenza, ma il dottore mi ha maltrattato. Sono un povero servo. Egli ha ragione, disse il vecchio lentamente. Io l'ho molto offeso. Eccellenza, eccellenza, andateci voi. A voi non dice di no. Tu sei pazzo. Per la signorina, eccellenza, dirà di no, mi insulterà. Per la signorina, no, no, è troppo. Ma eccellenza, lo avete detto, la signorina muore. Va via! Gridò brutalmente il marchese, cacciando il suo servitore. Restò solo. Oramai egli non trasaliva più di collera. L'odio taceva e quando di nuovo si presentò il dottore Morelli, che era andato e che era ritornato, domandandogli, egli rispose: «Non è venuto. Vado io. Lo condurrete? Lo condurrò». Era ben tardi però quando si mise in cammino a piedi per andare in via Santa Lucia, dove abitava adesso il dottor Amati. Era quasi mezzanotte e la gente si era diradata per Toledo nella dolcezza della sera di aprile. Malgrado la vecchiaia, il marchese correva per strada, spinto da una forza nervosa, e quando fu nel grande portone del palazzo che abitava Amati, fece le scale rapidamente, senza neppur rispondere al portiere che domandava dove andasse. «Dite ad Amati che vi è il marchese Cavalcanti», disse alla governante che gli era venuta ad aprire. «Veramente studia, diteglielo, ve ne prego, è una cosa urgentissima», pregò il vecchio, il cui orgoglio era completamente sparito. Ella andò di là, ricomparve subito, facendo cenno al marchese di entrare. Egli attraversò due salotti e si trovò in uno studio tutto in penombra, dove la luce della lampada si concentrava sopra un gran tavolone sparso di carte e di libri. Ma il dottor Amati era in piedi in mezzo alla stanza aspettando. Quei due uomini che si erano tanto odiati si guardarono con lo stesso dolore che li accomunava, e la pietà della infelice creatura morente troncò ogni astio. Si guardarono. «Che?» dimandò con voce fioca Amati. «Muore», disse Formosa facendo un atto disperato. «Di che?» «Di meningite». Un pallore terreo si diffuse nel volto del dottore e due pieghe gli si formarono alle labbra. E non osò fare rimproveri al marchese. Non aveva egli stesso abbandonata la povera creatura a cui aveva promessa giurata la salvazione? Non aveva per superbia lasciato il delicato fiore ammalato in preda a tutti i mali fisici e morali? Ambedue erano colpevoli. Ambedue. «Andiamo», disse. Entrarono pian piano nella stanzetta. Il dottor Morelli era andato via da poco, lasciando una letterina per il dottor Amati. Ma costui andò dritto al letto della inferma. La voce di costei, oramai stanca ma sempre appassionata, andava ancora ripetendo il nome di Amati, ma il capo era affondato nei cuscini e gli occhi socchiusi. Egli vide tutto immediatamente, e lo scompiglio del suo animo dovette essere tale che non giunse a padroneggiare egli il forte, egli l'invincibile, il suo volto. Ed esitò un minuto prima di rispondere alla infelice delirante che seguitava a chiamarlo, temendo di produrre sui nervi di lei un'impressione troppo forte. Ma non potette resistere a quella fievole voce che gli penetrava sino al cuore e lo faceva struggere di tenerezza. Disse: «Bianca Maria». Qual grido fu la risposta! Ella si levò, col volto improvvisamente acceso, con gli occhi diventati stragrandi, e gli buttò le braccia al collo, gli appoggiò il capo sul petto, gridando: «Oh, amor mio, quanto avete tardato! Non mi lasciate più, non mi abbandonate! È tanto tempo che vi chiamo, non mi lasciate!» «Non temete, non vi lascio», mormorò lui, cercando di vincere la sua emozione, carezzandole i bei capelli confusi e arruffati. «Non ve ne andate mai, mai!» gridava ella appassionatamente, stringendogli le braccia al collo. «Se mi abbandonate, io muoio!» «E non voglio morire», concluse lei di nuovo, calmandosi un poco. Stettero così qualche tempo. Il padre era ai piedi del letto, appoggiato alla spalliera, con gli occhi bassi, sentendo nel suo orgoglio schiacciato, nella sua anima trafitta, tutto il peso del castigo che il Signore gli faceva gravare sul capo, in punizione del suo lungo peccato. Pian piano, visto che la fanciulla taceva, che gli occhi le si chiudevano, il dottor Amati tentò di rimetterle il capo sul guanciale, ma ella sentì l'atto e mentre si abbassava attirò a sé anche lui e egli dovette chinarsi, poiché quelle braccia non volevano sciogliersi. Restarono così, ella assopita, egli inclinato in una posizione dolorosa, così angosciato di quella malattia e della sua impotenza, che non gli arrivava la sensazione di quel tormento fisico. Il dolore assumeva in lui tale una violenza che si sentiva scoppiare, non potendo né piangere, né gridare, né parlare. Ora la infelice fanciulla pareva assopita, ma ogni tanto sussultava, e una espressione di fastidiosa pena le si dipingeva sullo scarno viso. Poi ella schiuse gli occhi e con un soffio di voce che solo il medico intese chiamò: «Amore, che vuoi? Mandalo via». «Chi?» «Mio padre». Il medico impallidì e non rispose. Dette un'obliqua occhiata al vecchio, che era sempre fermo ai piedi del letto, con gli occhi bassi, dolorosamente concentrato. «Ti prego, mandalo via», ricominciò lei parlandogli nell'orecchio. «Ma perché? Così non voglio vederlo. Mandalo via, che se ne vada». «Bianca Maria, ma è tuo padre. Ascolta, ascolta», disse ella attirandolo maggiormente a sé perché gli potesse parlare più piano. «È mio padre», mormorò poi con una paura soffocata, con un rimpianto immenso. «Ma mi ha uccisa. Non parlare così, rispose lui, volgendo il capo dall'altra parte per non lasciare scorgere le sue impressioni. Ti dico che muoio per lui. Non ho il delirio, sai. Io ragiono, soggiunse ella, stralunando gli occhi con quel moto infantile dei fanciulli moribondi che fa impazzire di dolore le madri. Egli crollò il capo, come se non sapesse più che cosa fare, che cosa dire. Mandalo via, disse ella, insistendo, arrabbiandosi con le fatali irrompenti furie della meningite. Io non posso, Bianca Maria, se non lo mandi via tu, io mi levo e gli grido di andarsene, di non comparire mai più innanzi, mai più, hai capito? Aspetta, egli disse, decidendosi, rassegnandosi, e la lasciò, staccandosi da lei, rimettendole le scarne braccia sulla coltre. Ella lo seguì con lo sguardo, senza mai levargli gli occhi di dosso, come se con lo sguardo udisse quello che molto sottovoce il dottor Amati diceva a suo padre. Il dottore Amati, con molta delicatezza e con un fremito di dolore che faceva tremare invincibilmente la sua voce, gli spiegava che la meningite è una terribile malattia che abbrucia il cervello, che sconquassa i nervi e che fa delirare per giorni e giorni i poveri infermi che ne sono attaccati, e li induce a continua collera e persino al furore. Che la povera Bianca Maria era in preda a questo delirio, che non poteva soffrire nessuno nella sua stanza e che se egli amava sua figlia, se non voleva udirla dare iniscandescenze, facesse la carità di andarsene in un'altra stanza. «Mia figlia vi ha detto questo?» chiese il vecchio smorto con le sopracciglia aggrottate. «Sì, non vuole nessuno nella sua stanza?» Nessuno. Ma voi sì? Me sì. Mi caccia, mia figlia? Gridò il vecchio. Per carità, marchese, non vi irritate. Abbiate pietà della fanciulla, di voi, di me. Non me ne andrò, se non me lo dice lei, capite? Bianca Maria, chiamò il marchese, avanzandosi presso il letto. Ella guardò il padre con tale intensità, come se gli rispondesse. «Bianca Maria!» gridò l'esasperato vecchio. «È vero che non mi vuoi nella tua stanza? Dillo tu se è vero! Io non credo a quest'uomo! Lo devi dire tu!» «È vero!» ella proclamò, a voce chiarissima guardando suo padre. Egli chinò gli occhi, dove comparvero le ultime lacrime della vecchiezza. Chinò il capo sul petto, vinto dall'inflessibile castigo che gli veniva dalla delirante, dalla morente sua vittima. Uscì senza voltarsi e cadente come se avesse 100 anni, solo, taciturno, si ritirò in quella che era stata la sua stanza da studio, dove restavano solo un tavolino vecchio e una vecchia sedia. Lì, prono, con la testa fra le mani, senza più nozione né di tempo né di cose, il vecchio peccatore si immerse nella incommensurabile amarezza della punizione. Ogni tanto, fiocamente, o vivacemente gli arrivava la voce di Bianca Maria che diceva ad Amati sempre «Non voglio morire, non voglio morire, salvami, salvami, ho 20 anni, non voglio morire». Quella voce, quelle parole disperate pronunziate nel delirio, ma che pure parevano un lamento e una maledizione, gli facevano un effetto crudele. Non aveva più la forza di levarsi per uscire, per andarsene di casa solo a morire come un cane sopra gli scalini di una chiesa. Non pianto, non rimpianto. Non si levava per andare presso l'agonizzante, poiché sua figlia lo aveva cacciato, tenendo presso sé l'unica persona che l'aveva amata. «Non voglio morire, amore, non voglio morire», parlava la demente. Hai ragione», pensava il padre, trasalendo. E mentre le ore passavano, egli sentiva di là l'andirivieni del medico che tentava il salvamento della fanciulla, gli ordini frettolosi, l'uscire di Giovanni e di un assistente accorso. Egli non aveva più il diritto di presentarsi, di sapere, e difatti lo dimenticavano lì, come se fosse morto da anni e anni, come se giammai un marchese Carlo Cavalcanti fosse esistito. Non sarebbe stato meglio per lui se fosse morto, poiché tutti lo avevano abbandonato. È giusto. Verso le 2, dopo mezzanotte del terzo giorno, sempre seduto presso quel tavolino, lo colse il sopore, mentre ancora gli risuonava nell'orecchio quel delirio. Quanto tempo dormì? Quando si svegliò, il silenzio era così profondo che egli si sgomentò. Aspettò per udire quella voce che chiedeva di non morire ancora. Niente. Calcolò il tempo dalla consumazione della candela. Dovevano essere passate 2 ore. Una paura orribile lo assalse. Non osava muoversi. Guardò sotto l'arco della porta. Vide la faccia bianca di Margherita che lo guardava. Intese. Pure macchinalmente domandò: «Come sta la marchesina?» «Sta bene», disse fievolmente la vecchia. «Quando?» «Quando è stato?» «Un'ora fa. Non ha domandato di me?» «No, eccellenza.» Egli provò a levarsi. Non poteva. Pensò che la morte lo avrebbe preso lì, su quella seggiola, subito, poiché i giovani di 20 anni morivano prima dei vecchi di 60. Ora era sopraggiunto anche il dottor Amati. Era irriconoscibile. Un accasciamento mortale ne aveva distrutta tutta la sua energia fisica e morale. Come un fanciullo, grosse lacrime silenziose gli si disfacevano sulle guance. Tacquero un poco. «Ha sofferto assai?» chiese quel padre. «Immensamente. Non è stato possibile?» «No, non è stato possibile», disse il dottore, il vinto, aprendo le braccia, confessando la più atroce fra le sue disfatte. Il vecchio, dalla faccia oramai immobilizzata in quella tragica espressione, non piangeva. E come un fanciullo inconsolabile, il dottor Amati lo prese per mano, lo sollevò, gli disse teneramente: «Venite a vederla». Andarono. La marchesina di Formosa, Bianca Maria Cavalcanti, giaceva sul suo bianco piccolo letto, col capo un po' abbassato sulla spalla, con le cere mani dalle dita livide congiunte per mezzo di un rosario. Le avevano messo un vestito bianco, molle, sullo scarno corpo. La bocca violetta era socchiusa, le palpebre terre erano abbassate. Pareva assai più piccola, come una fanciulletta adolescente. Non aveva sul volto che l'impronta della morte che tutto placa, che a tutto indulge. Non la serenità, ma la pace. Dalla soglia i due uomini guardavano il piccolo cadavere dalle lunghe trecce nere fluenti lungo la persona. Non entrarono. Immobili, ambedue tenevano gli occhi su quella piccola salma e il dottore teneramente ripeteva come fra sé, come un fanciullo che nulla potrà consolare: «Ci vogliono dei fiori, dei fiori». Il vecchio non lo udiva, guardava sua figlia morta e senza parlare, senza trarre un sospiro, piegò il suo gran corpo e si inginocchiò sulla soglia, tendendo le braccia, chiedendo perdono, come il vecchio Lear innanzi al cadavere della dolce Cordelia. Teresa Saponangelo ha letto Il paese di Cuccagna di Matilde Serao, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.